Cioè, fammi capire, Salla, hai messo a registrare, c'è un accesso a pisciare nel frattempo? Vabbè, comunque, benvenuti mentre Salla fa qualcosa in sottofondo. È ritornato, sta mazzolando il microfono, mi sa. È Ma in realtà è tornato. Andrea quello, io non sto facendo niente. Ah, ok, allora Andrea Io sono seduto qui. Benvenuti, episodio stava 70. schiaffeggiando. Non Episodio 70, schiaffeggiamo sì. più cose e non è il 69. È 70. Giusto? Sì. Sì, vai. Come gli anni 70, da cui questo Porco film. No, cane. Merda. qui la connessione è troppo rapida. Stiamo parlando di Baby Driver, che in italiano addirittura c'è il sottotitolo che è Il genio della fuga. Wow. Ma Italiano. secondo me, ti giuro, io non sto scherzando, secondo me ce l'hanno messo perché in quel periodo girava Baby Boss. E più di una persona mi ha chiesto: ah, Baby Driver, quello col bambino che c'ha la giacca e la cravatta, capito? Mi sai che hai Corto, giù. ragione. Comunque, beh, Baby Driver, film del 2017, sì, di Edgar Wright, che è uno se non il mio regista preferito, uno dei miei registi preferiti. Non so perché Salla ha deciso di farmi questo regalo No, a me per il giorno piace delle Baby vacanze. Driver, a me piace anche Edgar Wright in realtà. Sì, però Ci ci sarà, sono. capisci, una vendetta, Jacopo, mai fidarsi di Salla. Esatto. Esatto, secondo me me la farà pagare in qualche modo questo favore. Non so, come ti è venuto in mente di riparlarne? Perché è su Prime. Ah, ok. Ok, quindi sapete anche dove vederlo in maniera legale. Allora. Parliamo un attimo di cos'è Baby Driver e poi vari problemi e varie altre cose. Baby Driver è un film dove la trama è inutile, non serve assolutamente a un cazzo, e fortunatamente è anche brutta, nel senso che va anche molto sullo sfondo, perché la solita trama del tizio, diciamo, come posso dire, talentuoso, anche leggermente, cioè, come posso dire, autistico, cioè un po'... Puoi dirlo, è un disabile del cazzo. No, No, penso che never autistico go full sia. retard. Come? Penso che autistico sia davvero l'aggettivo È sullo azzeccato. spettro, non è Nel autistico, senso cioè che comunque. è un autista, dici? È È un autista, fa esatto, un parte autista dello autista. spettro autistico. E ha anche un problema che si chiama acufene, che hanno molti musicisti cantanti, quindi c'ha sempre le cuffiette sulle orecchie. E fai l'autista Beh, per gli. Jacopo. Ti assomiglia un po', c'ho Mi sempre le assomiglia un po', sì, è un cuffiette. disadattato. Con la differenza che questo qua è un figo e guida come un forsennato, cioè bravissimo a guidare. Infatti lo usano come in Driver, il film quello con Ryan Gosling, lo usano per le fughe dai colpi in banca, dai colpi, insomma. E questo è il film, c'è lui che fa questo autista, però lo fa, diciamo, un po' controvoglia, perché in realtà ha questa figura adulta che lo sta abusando, cioè sta abusando di lui, mettiamola così. Che è stata interpretata da Kevin Spacey, guarda caso, molto, molto adatto al ruolo, si è poi scoperto. E sai, questo è l'ultimo film, o il penultimo film che ha fatto, tra l'altro. Allora, questo è, diciamo, sì, forse l'ultimo film di Kevin Spacey quando non era pedofilo ancora. Poi lo è diventato. Esatto. Poi ha deciso di cambiare vita e di fare coming out come pedofilo. E quindi niente, cioè, il film, diciamo, è bello perché sì, ci sta questa storia di lui che poi cerca di uscirne, trova questa ragazza, vuole scappare, ci sono un sacco di problemi, di scene di tensione e così, però in realtà la trama è inutile perché la cosa bella di questo film, per cui dovesse guardarlo e poi passiamo ai commenti degli altri, è che questo film è tutto quanto un film fatto, cioè montato a tempo di musica, montato sia l'audio che il video, le battute delle persone. Qualsiasi cosa vedi, senti, è tutta in base alla colonna sonora che il regista ha scelto molto prima di girarlo. È tutto a tempo di musica, è tutto. È come guardare un video musicale quasi, o una. Non lo so. Personalmente era un mio prurito mentale, cerebrale che mi è stato grattato, non so come descriverlo. Cioè, è qualcosa che funziona e si incastra tutto perfettamente. E non lo so, è una cosa, boh, non ho mai visto una cosa del genere fatta per tutto il film. E niente, questo è per riassumere il film, guardatelo. sapendo che la trama non è niente di che, però è veramente una cosa cioè, spettacolare da sentire, da ascoltare. Salla, dimmi cosa ne hai pensato pure tu, cosa... Allora, intanto in questo film c'è un mucchio di gente famosa, c'è Kevin Spacey, allora il disabile è fatto da Ansel Elgort, che non ha fatto niente esatto. In realtà, e, però è l'unico che non ha fatto una sega, perché c'è, c'è Lily James, che è famosa per aver fatto un sacco di musical e robe strane, tipo Mamma Mia, oppure anche cose orrende, tipo... un botto di roba orrenda, tipo il coso di Cenerentola, il live action di Cenerentola. Sì. La gnocca non so chi sia per la prima volta nella vita, ma credo che abbia fatto dei Fast and Furious. Sì, sì, sicuramente. E poi c'è John M. Fast and Furious Obsession Show, infatti. Poi c'è John M, che non puoi non amarlo, perché è bello, cioè è proprio bello. Cioè, John M, cioè, è John M, cioè, è lo bello, vedi? Cazzo. È lui, cioè, dividi. E poi c'è Jamie Foxx, che è onestamente uno dei ruoli più deboli, almeno fino al finale, che abbia mai visto. Che fa il cazzo di pazzo. Fidato, sì. Che però anche lui, come dicevo io l'episodio scorso, non si può fare un matto dicendo che sei matto. Cioè, non so, magari non è chiaro quello che ho detto, però... Sì, sì, no, è giusto. Per interpretare un matto non ti basta dire sono matto. È carino il monologo che fa alla fine, però in assoluto mi sembra uno dei personaggi più deboli. E poi c'è The Punisher. No, però c'è anche il bassista di Red Hot a un certo punto, personaggio chiave. Sì, è uno dei tizi, vabbè, uno dei tizi. Ah, ok. C'è John Bernthal, che è quello di The Punisher, che è un figo. Vabbè, basta. Menzione d'onore a Steven Prince, che è il compositore di questo film, che tra l'altro è un tizio che ha fatto un botto di roba, tra cui anche Signore degli Anelli, per dire. In realtà lui non ha fatto tantissimo, cioè nel senso... L'audio comunque l'ha fatto lui, il sonoro. Sì, però, cioè, di cose originali c'è poco, è quasi tutta una mettere canzoni continue. Ah, cioè. sì, chiaro. Sì. Però insomma, che altro volevo dire? Volevo dire un botto di roba in realtà. Infatti, non so perché sono il primo che parla. No, sono un botto di cose carine. Intanto, per esempio, una cosa stupida che non c'entra niente. La trama hai detto che è inutile, però in realtà è girata molto bene. Sì, sì, sì. Per cui, per esempio, non ci sono spiegoni. Ma l'unico spiegone che deve dire chi è lui e perché è lì è una cazzata che dice Kevin Spacey a un certo all'inizio punto. Sì. Però non c'è flashback, non c'è niente, e non si prende sul serio, quindi per esempio c'è la parte in cui lui dice fermi, devo mettere il pezzo da capo, ste cazzate qua, che secondo me è incredibile. Sai quella scena perché c'è? Prova a indovinare perché sono sbagliati esatto. Ho detto, cazzo, questa scena è troppo lunga. Vabbè, baby, metti indietro l'iPod, a posto. È bellissimo. No, e anche cioè, il fatto che Edgar Wright stia facendo questo film, perché lui vuole fare questo film, non vuol dire che poi lui non sia Edgar cazzo Wright. Quindi tutte le scene d'azione di sparatorie sono incredibili. Cioè, il fatto che una delle particolarità di Edgar Wright è che lui inquadra l'oggetto che si muove e non la persona che lo muove. Per esempio, se una persona butta una pistola nel baule di una macchina, non è inquadrata la persona che butta la pistola, è inquadrata la pistola che si muove dentro il baule. Mm-hmm. E questo è puro Edgar Wright, e rimane questa roba qua, e quindi è fighissima. Tutte quelle scene, quei montaggi in cui ci sono delle cose che sovrappongono, sono tutte sue e rimangono, quindi le scene d'azione sono comunque fighe se ti piace Edgar Wright, e comunque lui non è uno stronzo, quindi... E, poi, a proposito della musica, volevo dire solo due robe, poi vi lascio liberi. Una roba che ho visto, perché adesso l'ho rivisto su Prime per sta cosa qua, c'è un punto in cui lui si toglie una cuffia. Sì, sì, e è la vero. Musica è solo nell'altra cuffia. Sì. Cioè la musica è stereo per tutto il film. Ma al cinema si sentiva di più, perché io e Roberto abbiamo visto proprio il cinema quando è uscito. Ma io non l'ho notato. Ci stai pure tu quando l'abbiamo visto, eri, non eri con noi, mi sa. Non credo. C'era praticamente, si sentiva anche il fischio dall'altra parte, quando non aveva le cuffie. No, l'avevo notato, però è molto figo. No, ma poi chiunque abbia fatto il doppiaggio italiano è un grande, perché hanno mantenuto tutte queste cose dall'originale pure. Sì, sì. E sono cose che il regista ha messo dentro. Ora, io non so quanto abbia avuto, diciamo, di mano nel montaggio, perché immagino sia stato fatto pure lì blindato, però tipo lui nella sceneggiatura aveva già tutto, capito, preso, preciso, tutte le canzoni, i tempi, le inquadrature, gli storyboard, perché doveva essere tutto perfetto da girato, quindi in realtà ci sono tipo due scene tagliate solo, è tutto, cioè è un film... è perfetto, è tipo, cioè, un gioiellino che sta lì, capito? Tutto bello, fatto bene, iniziato, finito, così. E... sì, non è che, in realtà non è che la trama è brutta, è che ci sono vabbè, delle una parti... trama semplice, dai, cioè, sì, nel senso, in realtà quello non è il suo problema, secondo me, in realtà il suo problema è che ci sono delle parti che lui avrebbe dovuto tagliare, che ha voluto lasciare. Per esempio, il duello, tra virgolette, finale, che è quella parte che Andrea mi ha già detto che odia, non ci sta, cioè poteva semplicemente non metterla, non c'era bisogno di metterla. E per me ci poteva stare, ma corta, cioè sì, una roba sì. molto corta. E lo stesso alla fine, quando c'è una scena finale e poi ci sono altre cazzate, le altre cazzate poteva semplicemente toglierle, poteva lasciare il finale in sospeso, sarebbe stato molto più figo. Quella scena finale ci stava, secondo me, non tanto per il duello, perché alla fine, cioè, il cambiamento di Buddy è quando lui entra dentro il diner, che lo vede lì e parte la canzone quella tutta sexy, così. Ma quello va bene, è quello nel parcheggio che fa. È quello nel parcheggio, non è per lui, è per Doc, cioè per Kevin Spacey, che secondo me, cioè, in quella scena cambia un po' il punto di vista del pubblico anche su di lui, perché fino a quel momento dice, vabbè, ok, alla fine Buzz era solo un coglione, Buddy è un veramente psicopatico, e Doc alla fine scopri essere... cioè non era semplicemente... cioè non era così facile definirlo come il cattivo. Doc era comunque una figura complicata anche per lui, per Baby, da affrontare, però... perché era tipo una figura paterna anche, cioè era uno che comunque alla fine gli voleva bene a modo suo, in maniera sbagliata. Quindi cioè, rende un po' più complicato l'abuso. Okay. Subito, lascerò Andrea spiegare il mio punto di vista su questa cosa. No. Grazie Andrea. È vero. No, è l'ultima roba che volevo dire, è che la musica è molto figa, nel senso che a parte che è tutto scritto bene, fatto bene, è carino anche perché... allora, sembra un video musicale, ma in realtà non è un video musicale. Sembra un video musicale perché la realtà cambia in base alla musica. Cioè, se lui dice che c'è una tromba nella musica, lui vede una tromba nella realtà. Per quello che sembra un video musicale. In realtà, secondo me, però è anche una cosa... è plasmato. Cioè, secondo me è plasmato sulla musica, cioè proprio la musica, esatto, la protagonista. Esatto, è il contrario. Cioè, non è un video musicale, ma è la musica che cambia... che detta la realtà, le esatto. regole, sì, il ritmo del esatto. film. È una cosa più di stile, cioè di forma, è una cosa che ti, sì, ti dà sì. dei sensi, cioè dei sentimenti, delle sensazioni senza parlare, cioè, perché alla fine lui parla pochissimo. Pochissimo, sì, no, cioè da questo punto di vista secondo me è un film che è veramente intrattenimento, godimento puro, cioè proprio bello, bello, gradevole, ritmico, sinestesico quasi, cioè sì, probabilmente io non ho mai visto assurdi in certe scene. Un film così, esatto, cioè non mi viene in mente nulla di paragonabile onestamente, perché appunto non è un musical, è un film dove al di là della trama, al di là dei personaggi, in realtà la musica è protagonista, e tra l'altro insomma spazia anche abbastanza dai Queen, se non mi ricordo male, a insomma, i Beach Boys, i Blur, Sky Ferreira. No, poi è il talento, bellissimo. Cioè sicuramente il talento del regista viene fuori. Ah no, in qualche modo... i primi sei minuti si meritano un Oscar a parte. Cioè, è in qualche modo è molto... No, i primi 6 minuti l'ho rivisti 50 volte, cioè il video su YouTube. Andate a guardare il video su YouTube dei primi 6 minuti, perché diciamo che c'è successo un problema con i trailer quando uscì questo film, che comunque ha incassato tipo 200 milioni, quant'è? 226. Non so. Budget di 34 milioni e l'incasso di 226, sì, che è l'incasso più grande mai fatto, mi sa, da Edgar Wright, forse Hot Fuzz lo supera, l'unico. Ma, cioè, quando uscì questo film ci misero 2 trailer, o forse 3, e solo uno, che era con Tequila, dava un po' l'idea di che cos'era il film. Perché ovviamente i trailer non li fa il regista, li fa un altro tizio che prendono. Sì, tra l'altro di solito i trailer, a meno che non stiamo parlando di Suicide Squad, li fa proprio un'agenzia a parte. Cioè tu paghi della gente che non c'entra un cazzo col film per montarti il trailer. Mentre Suicide Squad hanno pagato quella gente per fare il film. Il contrario. No, davvero, cioè, sembra una gag, ma è stato davvero così. Sì, sì. E quindi il problema era che appunto gli altri trailer sembravano film normali, invece questo qui con Tequila era più, diciamo, l'idea del film. Quindi la Sony ha rilasciato anche i primi 6 minuti per dire guardate che tutto il film è così. E sono geniali, cioè sono stupendi quei primi 6 minuti. Ma un'altra cosa che volevo dire, a parte la colonna sonora che è stupenda, anche i lavori di stunt, cioè gli stuntmen in questo film hanno fatto cose che non sembra, perché dice vabbè, cioè in Fast and Furious si vedono cose più assurde, però in Fast and Furious è cioè 90% è oddio, almeno nelle scene quelle assurde, qui è tutto pratico. Vuoi davvero competere con Fast? Sì, ho capito. No, non è una competizione, però dico, cioè sì. Ci sono stunt qui veramente mai fatti prima, cose, cioè, tentate, anche riprese, che magari non noti, però... Tipo quando lui, cioè, all'inizio fa quella sgommata e si gira a sinistra, poi si rigira a destra e passa tra quei due... Non so descriverla, capito. E... Vabbè, ma io sono troppo fan di questo film, parlate voi, io se no dico troppe... Ci sto a fare seghe. No, non ci sono, secondo me, tante... anche criticità da sollevare, a mio avviso. Ok, non ti puoi aspettare una trama, però anche la trama in realtà è bella, non è, sì, è una trama abbastanza semplice, lineare, però boh, quasi non te ne frega niente la trama mentre guardi il film, cioè perlomeno ed è una cosa che a me non capita quasi mai, però con questo film ti lasci proprio trasportare. Dalla musica, dalle immagini, dei colori, dei suoni, no, assolutamente note positive. Andrea, pure tu? Sì, d'accordissimo quello che avete detto. Oh, l'unica cosa che non mi è piaciuta, come diceva Sara prima, forse è appunto la parte finale dove c'è il cambio, cioè... Non so, Doc all'improvviso diventa il padre. Non lo so. Lì non mi è piaciuto tanto. Non so la scelta che hanno fatto, però... Un gran film. So, qual era che ti ho detto la battuta che mi ha fatto calare? Anch'io ho amato. L'alte le ginocchia? Ah, esatto, anch'io ho amato, boom. A fine film, tutto il film è così. Un personaggio bruciato, esatto, è morto. Sì, però c'è modo e modo. C'è un conto, è far. Cioè, poi per l'amor di Dio, non credo che Edgar Wright sia un genio nel fare ste cose. Però in teoria, Kevin Spacey le dovrebbe saper fare. E... Beh, in realtà, forse no, non lo so. No, Edgar Wright non è un regista di film. D'autore, non è un regista di film sentimentale, è un regista di film d'azione, quindi quello, cioè magari lui poi sa fare un botto di roba, però non è famoso per fare film in cui da uno sguardo di un attore capisci che lui in realtà è un'altra persona, ecco, questo da una battuta è una merda, non so come, boh, non so se mi sono spiegato, però cioè, anch'io ho amato, vabbè, poi magari in lingua originale non lo so, non mi ricordo. Adesso l'ho visto in italiano. Ma sì, era comunque stupida, però... Boh. Sì, boh, sto film riguardo allora, secondo me il problema è che Kevin Spacey, ma per altri motivi, questa scena la lascia sempre. No, ma Kevin Spacey non è male. Secondo me ha recitato un po' con la mano sinistra, facendo, cioè riciclando il suo solito personaggio, perché tra lui, tra queste 21 non cambia una sega. E cioè è letteralmente la stessa persona. La parte finale, che è una parte che in 21 non c'è, non c'entra un cazzo. Cioè non si vede che non la sta facendo. Cioè, perché alla fine ci sarà un motivo se Baby, cioè non lo so. Sì, sì, ma a me va benissimo che sia cioè che il personaggio sia così, nel senso che il personaggio dietro sia buono, o comunque sia responsabile, cioè, si senta responsabile. Esatto, per... esatto. Però, porca puttana, fallo in un altro modo, cioè non mi puoi fare io amato, tira sul fucile a pompa e spara, a meno che tu non ti chiami Bruce Willis. È Kevin Spacey, allora... lui di mestiere dovrebbe fare sta roba qua. La cosa che mi dà più fastidio invece per me di sto film è tutte le scenette carine con lui che è un figo, che capito, mixa la musica, c'ha il tizio cieco in casa, cioè no. Mi sa cieco, sordo muto. No, mi sa sordo muto solo. Sordo muto. Quello è un po'... Ah, devo dire che la quarta volta che lo riguardo oggi mi ha un po' stancato, però vabbè. Forse perché era la quarta volta che lo vedi. Forse la quarta... No, però sono le scene quelle meno visivamente interessanti, forse quelle evidenti. Ah, è molto carino il fatto che ci sia tutta la storia di lui che dice non sono preoccupato per me, sono preoccupato per te, tutte queste cazzate qua. E... detto questo è la solita broda riciclata, cioè niente di che. Sam il nipote di Kevin Spacey. Nipote di Kevin Spacey. È il nipote di Doc, vabbè, Kevin Spacey. Sì. Carino. Ah, oddio, sì, quello, il bambino, sì, ok. Il bambino è incredibile. Incredibile il bambino, quello veramente bravo. No, ma anche gente tipo la cassiera, comunque rimane, cioè, non male, così, cioè, ah, pure il tizio, il macellaio, cioè quello che vende le armi, che vende le armi a, lui in realtà è abbastanza, cioè, è uno famoso, è tipo, mi sa, un cantante, un compositore, mi sa, il nanetto, vabbè, non mi ricordo. Ho capito, sì, sì. Paul Williams, mi sa che si chiama. Sì, Paul Williams si chiama. E molto, molto John Wick quella cosa quando dice i nomi delle armi usa i saluti. Ah sì sì sì, è vero, questo è guanciale così. Ricorda il sommelier di John Wick. E niente, che dire. Ah, fotografia, Salla, qualche commento? No, vabbè. No, cioè, no, non so, è molto anni 80, cioè molto anni 70, anni 80, quindi a quei colori lì, tutti slavatini, e poi sono tutti finte robe assolate, però ci sta. C'è le luci molto dure, non so come dire in parole normali. Come hai detto, le luci? Molto dure, ma non è neanche vero in realtà, non sono neanche molto, cioè sono semplicemente che slava molti colori e da quella idea un po' anni 70, anni 80. Ah, è carina. Poi in realtà, appunto, cioè, lui si basa molto sulla musica e le scene d'azione, che secondo me non sono da sottovalutare, perché Edgar Wright, lui quello sa fare e lo fa bene. Esatto. Lui c'ha un sacco di riguardo per il montaggio e per le scene d'azione, sì. Cioè non spreca una scena d'azione, non spreca un taglio, lui usa tutto. Per evitare spiegoni, lui usa tutto per dare un'emozione, per spiegare una cosa, per far andare avanti la trama. Non spreca un momento. Bravissimo. No, infatti, se non conoscete Edgar Wright o se non avete visto molto di Edgar Wright, recuperatevi roba, perché a parte Ant-Man, che ha un sacco di queste cose, però, devo dire, però anche un sacco di altra merda, andatevi a recuperare le sue robe, tipo la trilogia del cornetto, queste cose qua, Scott Pilgrim, per dire. Sì, del protagonista tra l'altro ricorda un po' ai tratti di Scott Pilgrim, è vero, esteticamente parlando, che è un novellino Scott Pilgrim, sì. Guardatevi Scott Sbarbatino. Pilgrim. Guardatevi anche la scena del viaggio di Hot Fuzz all'inizio, quando prende il treno, quei 30 secondi e basta. Poi potete lasciar perdere. E anche, secondo me, beh, fatto l'alba. Anche tutti i flashback di Ant-Man quando parla, non Ant-Man, ma un altro stronzo. Sì. Che quello è... Vedetevi l'alba dei morti viventi. No, dementi. Dementi, pardon. Mi raccomando. Ma in realtà sono figli tutti e tre. The Worst End forse è il più debole, però Shaun of the Dead e Hot Fuzz sono spettacolari. Ma vogliamo parlare? Non voglio andarmene. Questa è tipo la mia isola felice, il mio palazzo. Goditela, perché... ne avrai un'altra tra un anno. Io esatto. Non lo vedrò mai più, che tra un anno. No. Come no? Tra l'altro... Cosa tra... No, di? Quanti sono passati tre anni ancora? L'altro, quello là... Come si chiama? Bronx... No. So, come si chiama il film il prossimo? Vabbè, ancora non si vede. Last Night in Soho. Quello, è sparito, sto stronzo. È lì che si gode i soldi. Di Ant-Man. Quando ha fatto Ant-Man, anche se ha fatto poco, secondo me l'hanno pagato... Eh sì, era il produttore lui. Una svaccata di soldi e niente, è lì che si rigode. No, se non sbaglio, Shaun of the Dead e Hot Fuzz sono anche su Prime, credo, su Netflix. Davvero? Per cui se non li avete visti, almeno Hot Fuzz una volta c'era. Approfittate, gente, approfittate. Guardateli perché perché sono fighi. No, cioè io Hot Fuzz l'ho visto 10 volte, non sto esagerando, e ogni volta mi fa morire. È bellissimo. Bene di tutti. Il bene di tutti. se siete un minimo fan di film d'azione o di Bruce Willis, guardatelo. Cioè, è per voi questo film. Allora, dei morti dementi, se vi piace un po' l'umorismo di Edgar Wright, così guardatelo, se no gli zombie. Scott Pilgrim non l'ha visto nessuno, per favore guardatelo, è bellissimo. Guardatelo, esatto. Per favore. C'è anche Capitan America. Ah, è vero, che maledetto. Tipo 10 minuti. Ah, oh, c'è comunque. E poi in realtà consiglio anche Spaced, che è la serie TV. Sempre con Simon Pegg e Nick Frost. Ah, confermo, scusami, che Shaun of the Dead, Hot Fuzz e Scott Pilgrim sono tutti e tre su Prime. Perfetto. Italia. Quindi. Perfetto. Quindi, gente, approfittate. Spaced non so se c'è. Non però credo. Se non c'è, trovatelo in qualche modo e recuperatevelo. Okay. Quindi sentiamo Baby Driver 2. Sì, speriamo che non lo faccia mai. Spero che non lo faccia mai, sì. Tutte le cassette che non hanno fatto sentire, dobbiamo sentire. Puoi rilasciare un album o fare, che ne so. No, io ero curioso di sentirli tipo in live. Cioè, sarebbe stato figo fare tipo un concerto durante il film e cercare di seguirlo con le canzoni. Vabbè, forse spompavi la band, effettivamente. Però. Eh sì. E quindi, va bene, dai. E niente, io direi che possiamo salutarci qua e darci appuntamento prossima settimana. E come al solito, grazie di averci ascoltato. Grazie a Jacopo, Andrea e Roberta per aver blaterato. E niente, alla settimana prossima. Ciao. The boys. Sì, no.